fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. 2.52 del mattino, Resto Radio Convento, sabato 30 giugno del 2018. Risto Radio Convento è quello che cerchiamo essere, un posto per realizzare sogni e desideri, e così è spesso, perché insomma non è facile, non è usuale parlare a un microfono, e quindi è una bella esperienza che le spose e gli sposi, tutti festeggiati, fanno, ma è anche un posto per esaudire i desideri di chi lavora all'interno di questo ristorante. E dovete sapere che io ho appena espresso un desiderio fortissimo e la fortuna, la dea bendata, mi ha guardato giù, perché io ho detto: io voglio stare assolutamente qualche minuto nello studio radiofonico con due spose bionde che si sposano tutte e due nella stessa sera. Mi sembrava un desiderio impossibile, e invece la fortuna a volte ti guarda, scende giù dal cielo e ti fa realizzare tutti i tuoi sogni, perché ho due bellissime ragazze, entrambe bionde, sembrano veramente due bambole, che la curiosità davvera è che stanno festeggiando entrambe il loro addio nubilato, ma la cosa altrettanto importante è che non si sposano tra di loro, uno, non sposano la stessa persona, due, che già è un miracolo, ma che sono così amiche da aver deciso di fare l'addio nubilato insieme. E ora andiamo a conoscerle meglio, partiamo dalla prima. Sono Monica. Monica, eccola lì, da dove? Da Romania. Ah, Romania, vabbè. Romania, da Bergamo. Però vivi a Bergamo, da quanti anni sei qui? Da 12 anni. 12 anni, quindi ormai, cioè, nel senso, sì, sventoli la tricolore tutti i giorni, era fuori dal terrazzo. E una delle sue passioni, tra l'altro, 7 del mattino dopo brioche e cappuccino, va sul terrazzo e sventola la bandiera italiana cantando l'inno. Esatto. Quindi se la vedete non vi preoccupate, non è matta, è tutto normale. E sei venuta in Italia per lavoro o per scelta? Sì, per lavoro. Per cercare lavoro o per il tuo lavoro che già avevi? No, per cercare lavoro. Ah, per cercare lavoro, ok. E di fianco a te c'è? Io sono Brunilda. Brunilda, che già è un nome interessante. Sai da dove viene? Vengo dall'Albania. No, quello lo so benissimo che sai da dove vieni. Dicevo, sai da dove viene il tuo nome? Ah, come mai l'hanno scelto? Il nome è greco, Brunilde. Però okay, mia nonna non mi ha messo quella E finale e ha voluto chiamarmi Brunilda. Per renderti ancora più originale, cioè già eri originale come Brunilde e... Non mi piaceva tanto. Non ti piaceva, però sei ancora più originale come Brunilda. Quindi tu dall'Albania invece, e sei in Italia da quanto? Più o meno, sì, 12-13 anni. 12-13 anni, guarda quante cose in comune che avete. Perché poi anche in questo caso il destino, la storia, la vita le fa incrociare per lavoro, mi dicevate. Per lavoro, sì. Ok, raccontateci un po' cosa fate, che è anche molto molto interessante, e tutte le donne all'ascolto saranno con le orecchie tese a sentire quello che combinate. Confezioniamo trucchi. Confezionate trucchi in una ditta di? Di cosmetica farmaceutica. Sì, dove si trova? A Brignano Gerardada, provincia di Bergamo. Provincia, beh, insomma, lì vicino comunque. E avete trovato subito o avete fatto altri lavori prima? Sì, cioè io ho fatto anche altri lavori. Per me è il primo lavoro. Al primo lavoro, boom, dritta diretta. Sì. E confezionate trucchi, spiegateci un po' meglio in cosa consiste. E incolliamo le cialde, mettiamo etichette sui tubi, sulle okay. Beh, ma non provate niente o sì? Vi capita di provare qualcosa o no? In che senso, se li proviamo sui tubi? Sì, se sì, magari ci sono dei scarti o qualcosa, sì. Sì, però anche loro. Ah, però non fa parte del vostro lavoro, no, tra virgolette, no. Non c'è un controllo qualità, però per farci capire. No, non facciamo questa cosa. Ok, quindi solo confezionamento. Sì. E c'è un qualcosa di un po' artistico, mi spiego meglio, cioè le confezioni sono già preparate, pronte, schematiche, solo da assemblare, o c'è anche la possibilità di personalizzarle secondo il vostro gusto? Allora, praticamente ci sono le trucche. Non so se avete capito, è un po' complicata la domanda, ma... No, okay, no, meno male. Capito. Bene, bene. Ci sono le trousse che incolliamo le cialde, c'è orientamento della cialda, quindi facciamo proprio il prodotto, lo incolliamo dentro. Ok. E poi ci viene fatto il confezionamento, che ci sono gli astucci, le istruzioni. Quindi dovete seguire passo passo, cioè sì, passo passo, sì, insomma, comunque uno standard, chiamiamolo così. Sì, abbiamo una scheda, uno standard che vi viene dato. Andiamo passo passo come quello, lo facciamo uguale. Ok. E quante siete in questa azienda? Una quarantina, sì, penso. Insomma, una medio grande azienda. Nel vostro reparto, invece? Nel nostro reparto penso una ventina, in base anche al lavoro che Però, 20? Tutte che fanno confezionamento. Sì, sì. Però ci sono più linee, ovviamente non facciamo tutte la stessa. Ma Italia estero o solo Italia? Un misto. Italia estero, sì. E vendete fuori dall'Italia. Ah, e vendete a solo aziende, anche privati, come funziona? c'è un'azienda, ce ne praticamente confezioniamo per un'azienda, poi la spediamo all'azienda e poi loro. Ah, quindi avete un solo cliente? No, abbiamo più clienti. Però loro dopo distribuiscono loro la merce in base a dove ce l'hanno i clienti. No, ok, ok. Quindi vabbè, insomma, avete a che fare con tutto il mondo, cioè non voi direttamente, però l'azienda ha a che fare con tutto il mondo. E vabbè, inutile dire che immagino che sia un argomento che vi sta molto a cuore, che vi interesserà parecchio, immagino. E no, volevo indagare un attimo un po' di più, perché è veramente interessante il doppio di un nubilato, perché io almeno è 5 anni che lavoro qui dentro e non l'ho mai visto nella mia vita, il doppio di un nubilato. Infatti, voglio capire come è nata l'idea e se è nata da voi o è tutta opera loro. No, è stata opera della nostra collega che ha voluto organizzare tutto lei, però l'unica cosa è che non ci sposiamo nello stesso giorno, ci sposiamo quello, una settimana di differenza. Beh, però vicinissime. Hanno deciso di fare una Chi è la prima? Io sono la prima. 18 e agosto. Siete d'accordo? A 18-25 quindi? 26. E siete d'accordo che tu le darai un paio di suggerimenti o ti terrai tutto per te? Sì, no, ma infatti ci stiamo già dando dei consigli. Vabbè, per organizzare, ok. E però è lì sul momento che poi si sente l'adrenalina vera, l'emozione vera. Cosa farà? Cioè, le darai un paio di dritte, le dirai, le svelerai qualcosa o te lo tieni? Deve, per forza. Deve, addirittura, obbligatorio. Certo, gli dirò com'è un matrimonio, emozione. Addirittura, com'è un matrimonio? Cioè, dai risposte sulla vita, sei tipo l'oracolo. Cioè, dirai com'è un matrimonio, bellissimo, bellissimo che tu già prevedi il futuro. No, sai cosa mi piace? L'immagine che mi sta passando ora nella testa dello scambio di ruoli che avrete in una settimana. Perché comunque tipo abito bianco, abito elegante, abito bianco, in una settimana di differenza. Quindi vi sto immaginando in questo scambio ruoli nell'arco di 7 giorni. È davvero interessante. E come vi siete conosciute all'interno, immagino, dell'azienda, me l'avete detto sicuramente, però com'è stato il primo approccio? Cioè lavorativo o... Sì, all'inizio proprio lavorativo. Puramente lavorativo. Non c'era niente okay, di... Ok, niente di più. Sì. Poi piano piano ci siamo conosciute un po' meglio. E... Quindi confermate che c'è anche la possibilità di vedersi oltre le ore di lavoro e costruire dei rapporti un po' più profondi? Sì. Ok. Tra l'altro dovete sapere che loro sono state molto riconoscibili nell'arco di tutta sera, tranne una persona che si è innamorata del ventilatore ed è ancora lì attaccata da più o meno le 9:30 di stasera. E è così, insomma, è una serata molto calda, indubbiamente. Questo sabato 30 giugno già si sapeva che sarebbe arrivato il caldo estivo, però questa ragazza evidentemente ha avuto un po' gli ormoni impazziti e vi giuro che si è piantata davanti al ventilatore più o meno alle 9:30, sono le 3 del mattino ed è ancora là. Cioè, non si è veramente spostata ed è rimasta anche da sola per parecchi minuti pur di non muoversi dal ventilatore. E veramente ci siamo un po' anche appassionati alla sua storia, che sembrava quasi un record del mondo, non so cosa avesse in testa. Sta di fatto domani avrà un mal di gola sicuramente epico e quindi le dovrete tenere la manina, le staremo vicino. La salutiamo, come si chiama? Anna. Salutiamo Anna. Anna Dolce, specifichiamolo. Quindi salutiamo Anna e il suo amore per i ventilatori. Sposata, single, fidanzata? L'anno prossimo. Si sposa con un essere umano? Sì. Ah, ok. Con il ventilatore. Ah, no, infatti, credo. Perché volevo avvertire il suo futuro marito che sarai il primo uomo cornuto con un ventilatore. Quindi avrai questa bellissima etichetta da portarti in giro per il resto della vita. Almeno non ti ha tradito un uomo, ma un ventilatore. Insomma, ci sta, insomma, ha cose che noi uomini non abbiamo e capiamo benissimo. E quindi complimenti, perché bella idea. No, dicevo, si sono fatte notare non solo perché hanno una pazza furiosa che sta davanti al ventilatore, ma anche perché hanno loro tutte in rosa e con la gonnellina veramente identica, e le amiche invece pantaloni neri e anche loro canottiera rosa, quindi hanno anche colorato e caratterizzato il nostro locale. C'è un motivo per questa scelta anche cromatica o no, così casuale? Siamo ispirati da una foto e ci piacciono. Ah, ok, e vi siete legate a quella. Abbiamo lavorato anche tanto perché sono fatte a mano. A mano, sì. Ma sono le vostre vestite di tutti? Tutte. E chi è il fenomeno? Noi due. Voi due? Tutte 3 sere di fila andare a dormire a mezzanotte. Cioè, quindi sapete anche, insomma, non solo confezionare, ma anche cucire e mettere in piedi. Facciamo tutto. E tra l'altro è bellissimo perché solitamente è una festa sorpresa, non si sa nulla. Voi non solo vi siete, cioè pure siamo... cioè come si dice in Italia, cornute e mazziate, nel senso che vi siete pure messe al lavoro. Esatto, sì. Cioè deve essere la vostra festa e avete addirittura lavorato per la vostra festa. Esatto. Però immagino che la soddisfazione sia anche... Infatti è stata una bellissima. E vi è comunque un ricordo, un simbolo da lasciare alle vostre, a voi prima di tutto, ma anche alle vostre invitate. Quindi complimenti. Ma avete anche delle scritte, cioè a parte voi, hanno delle non ho visto, hanno delle scritte? No, mi sa che siamo pure. Bright Team. Bene, dai, ma è difficile far tutto. No. Sì, è stato un po' difficile. Un po' complicato. Però il risultato c'è. Va bene, allora dai, diamo anche il giusto titolo, oltre ad Anna Ventilatore, alle altre invitate, se volete salutarle, dirci i loro nomi. Sì, e se sono colleghe, amiche, sì, cosa le sono? Tutte le colleghe di Quick Service, tutte. Che sono Miriam, Olga, quelle presenti stasera intendo. Katia, Stefania. Lisa, Simona. Quindi solo poi, colleghe, solo colleghe. Sì, e poi tutte le altre che hanno, diciamo che si sono messe tutte insieme, ci hanno fatto anche un bel regalo, sì, li ringraziamo. Che non sono presenti però. Bene, bene, ci fa piacere, anche perché il regalo doppio è ancora più complicato del regalo singolo. E grazie a voi, volete approfittare per dire qualcosa? Volete dire, salutare qualcuno? Vabbè, vi ringraziamo per la bellissima serata, perché... Prego, sono 50 euro, grazie. Altro interessante, così guadagniamo altri soldi. Salutiamo altri i complimenti. Futuri mariti che no, stanno dormendo. No, questo potevate risparmiarvelo. E niente, in bocca al lupo. Io saluto mio figlio. Giusto, ci mancherebbe. Vai, saluto. Saluto mio Gabri, che lo amo tanto. Quanti anni ha? 3 anni. 3 anni, fantastico. È il periodo, l'età più bella, veramente, quella dei 3 anni, in cui c'è curiosità e coscienza, ma ancora innocenza. Gabriel, quindi non hai ceduto al nome italiano? No, è un nome che mi è sempre piaciuto e allora ho voluto mettergli a mio figlio. Hai fatto bene, hai fatto benissimo, ok? Tu vuoi salutare qualcun altro? No, te ne frega niente, vi odio tutti, mi fate tutti schifo. Bene, mi fa piacere questo messaggio di bontà a fine serata che ci vuole, è importante, e quindi grazie. No, a parte gli scherzi, grazie ancora a voi, speriamo grazie. Abbiate passato una bella serata e adesso vi dobbiamo lasciare nelle mani della collega, come si Simona. Chiama? Della Simona, che ci ha ordinato di essere ligi agli orari perché doveva riportarle a casa sane e salve, neanche fossero Cenerentola che a mezzanotte finisce il ballo e devono scappare. Sappi che sono già in ritardo di 3 ore e 5, quindi ormai un minuto più un minuto meno non ti cambia molto. Va bene, dai, grazie ancora ragazze, grazie, buona serata, buon divertimento, ciao. Ciao.